Gli Irrinunciabili presenta per RadioBigWorld.com Pacific Rim, un film di Guglielmo del Toro. Quando mi giunse notizia che Guglielmo avrebbe fatto un film con robottoni che picchiano dei mostri giganti spuntati fuori dall'oceano, tutto il mio corpo fu pervaso da un senso di eccitazione. Perché ho capito fin da subito che sarebbe stato un atto di amore, un profondo atto di amore incondizionato, nei confronti di quell'immaginario formato da Evangelion, Titan 3, Gundam e via dicendo. Per cui avete già tutto quello che serve per capire il film, potrei finire anche qua la recensione, non scherzo. Il film è assemblato con scene a volte incoerenti tra di loro, dialoghi telefonati, la trama ha tanti buchi quanto un gruviera, la coerenza va a farsi benedire, i personaggi spesso non sono memorabili, eppure stupendo, epico, bellissimo, totale. Pensiamo solo alle premesse. Dei mostri giganteschi spuntano fuori dall'oceano. Tutto il mondo si unisce per combatterli e nonostante arsenali nucleari e le armi più pazzesche che l'uomo è riuscito a concepire, non è possibile sconfiggerli. Allora cosa fare? Costruire da zero dei robot giganti, dai movimenti lenti, difficilissimi da comandare, costosissimi da mantenere, per prenderli ammazzate, letteralmente. Ovviamente negli scontri nei centri abitati si cercherà di fare più danni possibili, distruggendo palazzi come fossero gressini. Fantastico, direi quasi ammirevole, è lo stile che trionfa sul buon senso. Kaiju è il nome dato ai mostri, è un termine giapponese per indicare quel tipo di film dove esseri giganteschi spuntati fuori da chissà dove, attaccano città, si scontrano con forze militari e fanno tutte quelle cose che ci aspettiamo da creature del genere, che sono mosse solo da istinti di distruzione. Mentre i robottoni sono gli Jäger, un nome che suona figo e ricorda un po' un noto liquore. E dunque va bene, perché in questo film l'unica cosa che conta veramente è essere fighi, possibilmente più fighi di tutti. I Jäger possono essere comandati solo da due persone, che condividono i loro pensieri e i loro ricordi, in modo armonioso e diciamo sincronizzato. I protagonisti, lo avrete capito, sono i robottoni. I personaggi in carne ed ossa sono di contorno. Il finto protagonista, biondo, palestrato, non ci ha dato tanto, devo dire. E la ragazza asiatica al suo fianco è anonima. Buono invece Idris Elba, militare tosto. Abbiamo poi due scienziati nerd che possono risultare più o meno simpatici e un ottimo Ron Perlman, mitico, nei panni di un eccentrico mercante. Ma ritorniamo subito ai robottoni, sono superbi. Scordatevi le telecamere impazzite dei Transformer e la loro banalità. Qua abbiamo inquadrature solenni che esaltano tutta la loro potenza. I movimenti sono lenti e granitici, ogni colpo dato a un kaiju è qualcosa di fisico che quasi sentiamo anche noi. Al cinema ero più volte sul punto di alzarmi in piedi e applaudire. È una vera libidine, una tale maestosità meritava veramente lo schermo cinematografico. Gli effetti speciali sonori sono al top, raramente abbiamo visto qualcosa del genere. Ad onor del vero, come avrete capito, il film nello svolgimento dei fatti non è molto coerente. Prendiamo per assodate certe regole interne, poi chi se ne frega. Gli sceneggiatori pensano di procedere infischiandosene di quanto sia successo 10 minuti prima. Io di solito su queste cose non transigo, e voglio essere chiaro, ma qua farò un'eccezione, e il perché lo avete capito. C'è Guglielmo che dirige robot giganti che prendono a cazzotti mostri giganti, con il meglio degli effetti sonori e audio che la tecnologia umana possa offrire. Se non vi è ancora chiaro, io avrei pagato per andare al cinema e vedere 1 ora e mezza di botte tra Kaiju e Jäger. Il punto però è cosa avreste fatto voi. Perché se tutto questo vi ha scaldato il cuore e siete dei pazzi scellerati che ancora non l'avete visto, fatelo immediatamente, utilizzate lo schermo più grande che avete e della migliore qualità, volume a palla e regredite ad uno stato infantile e godetevi lo spettacolo. In caso contrario, magari questo film non fa per voi, però siete senza cuore. Non è un film da capire, anche perché da capire in Pacific Rim non c'è nulla, e da amare. È un omaggio ai robottoni giapponesi e ai film kaiju sempre giapponesi. Ogni personaggio è fatto volutamente così per omaggiare il genere. Dovete essere persone che si emozionano quando sentono cose del tipo attacco solare, alabarda spaziale, cannone al plasma. La sensibilità per amare Pacific Rim la si ha o non la si ha, e questo dipende da cosa abbiamo visto da bambini in TV. Se devo trovare una pecca, probabilmente direi che è stato dato poco spazio ai vari piloti internazionali dei diversi Jäger. Mi incuriosivano i cinesi, gli unici ad essere in tre, e la coppia russa. Sarebbe stato bello capire qualcosa di più su di loro, sulle loro storie e sulle loro personalità. Pacific Rim non è stato capito da tutti, perché bisogna condividere con Guglielmo il suo grande atto di amore. Condividete con Guglielmo il suo amore. Buona visione.